soffrono al passo, le vertebre inarcano sulle correnti. Mai voi saprete il sapore dei gigli, non seguirete le voci tra i vicoli. Su di voi corrono cani crudeli come macerie di voci ferite, asini immobili, asini immobili, asini immobili. Asini immobili. Sulle vene tra i sassi si spargerà il sale. E poi più niente.